The Passenger è un documentario a episodi che racconta le storie di persone che dopo aver perso la casa hanno cominciato un percorso all'interno di un progetto di abitare sociale che si chiama Housing First, che vuol dire prima la casa, e che nasce dall'idea che la casa è un diritto e che in quanto tale è alla base della possibilità di una persona di riaffacciarsi alla vita all'interno della società e non un punto d'arrivo come succede spesso nel welfare. The Passenger quindi è un film corale, un racconto per episodi dove le storie si intrecciano attraverso dei momenti anche molto crudi o comunque di osservazione della realtà presa proprio in presa diretta all'interno degli appartamenti e dall'altra parte dei monologhi scritti dagli stessi partecipanti al progetto, dagli stessi protagonisti, in cui in prima persona raccontano la propria vita. Questi monologhi sono illustrati da delle animazioni fatte con dei modellini all'interno di uno studio e rappresentano una tridimensionalità della visione dei nostri protagonisti che è forse poi la caratteristica più originale del documentario. Quando è iniziato il vostro viaggio e chi avete trovato durante il vostro cammino? Il nostro viaggio è iniziato 3 anni fa, quando abbiamo girato il primo documentario in uno degli appartamenti. Era un documentario molto diverso da quelli che stiamo girando adesso, perché raccontava un appartamento molto conflittuale. All'interno degli appartamenti abbiamo trovato conflitti, inquietudine, voglia di riscatto, ma abbiamo trovato soprattutto tanta umanità. Sicuramente l'umanità delle persone e l'entusiasmo con cui hanno accettato di raccontarsi è la parte centrale. È centrale anche rispetto a questa idea di finanziamento del documentario, che oltre che passare per i canoni più tradizionali come la film commission, i bandi e la ricerca di fondi privati, passa attraverso il crowdfunding. Un crowdfunding in cui i protagonisti del documentario chiedono di poter raccogliere i soldi proprio per fare queste animazioni di cui parlavo prima. Il ricavato della campagna di crowdfunding andrà a finanziare quelle che sono le animazioni che illustrano i monologhi dei protagonisti. In questo modo loro costruiscono la casa per le nostre storie. Questo è il nome del crowdfunding che si fa su Idea Ginger, sul portale Idea Ginger. Quando avete aperto il crowdfunding e fino a quando andrà avanti? Il crowdfunding è stato aperto la scorsa settimana e andrà avanti fino al 16 di gennaio, salvo la possibilità di poterlo prolungare se vediamo che ci sono, come dire, gli elementi per farlo. Avete intenzione di presentare i cortometraggi ad un festival? Abbiamo intenzione di presentare i cortometraggi sicuramente a dei festival, così come abbiamo fatto con il primo, che è stato in molti festival anche internazionali, anche in Francia, in Spagna, e che ha avuto una menzione speciale in un festival locale qui in Emilia-Romagna. Abbiamo intenzione di presentarli a dei festival. Abbiamo la possibilità, insieme alla FIOPS, che è la Federazione Italiana Organismi per Persone Senza Dimora, di poter distribuire il nostro documentario all'interno di quelli che sono tutti i progetti Housing First d'Italia. E questo per noi è una delle occasioni più importanti, perché può portare la nostra esperienza all'interno di contesti dove molte persone stanno vivendo la stessa e identica esperienza. Ma io non ho altro da aggiungere se non donate su ideaginger.it, sostenete il nostro progetto. Sono Dora Casalino, responsabile del progetto Housing First per il consorzio Solco del Comune di Ravenna. Che cos'è e cosa rappresenta la realtà dell'Housing First? La realtà dell'Housing First è una realtà complessa che riguarda la possibilità di sperimentare abitare sociale innovativo per persone che hanno perso la casa, quindi la possibilità che ritrovino attraverso appartamenti a libero mercato messi a disposizione dalle cooperative che prendono gli affitti di questi appartamenti, la possibilità di ritrovare una casa, uno spazio, un luogo da chiamare casa. Che impatto ha avuto girare un documentario del genere sia per chi lavora in quell'ambiente sia per i partecipanti al progetto? L'impatto del documentario sui partecipanti credo che sia stato davvero particolare, cioè molti sono stati orgogliosi di questa opportunità, hanno potuto mettersi in gioco, rendersi protagonisti del loro progetto abitativo e sentirsi anche utili nell'ottica di promuovere l'housing first, quindi di poter far sì che altre persone possano vivere la loro esperienza per quello che di positivo c'è in questa esperienza. Per gli operatori un po' di fatica, un po' di emozione rispetto al fatto di essere ripresi durante il lavoro, ma anche un grande stimolo a fare sempre meglio. La campagna di raccolta fondi per finanziare documentari è davvero importante per noi in questo momento, perché ridà un'opportunità di visibilità ai partecipanti del progetto, e credo che, visto che è tutto trasparente, tracciato attraverso la piattaforma Ginger, sia davvero un'occasione da non perdere.